è il rischio di nascere a se stessi, che uno c'è questa paura, io la comprendo, è la paura di perdere il rapporto con gli altri, che è un tipo di rapporto fusionale che non ci dà mai una grande soddisfazione, ci dà un po' di calore, ma non una grande soddisfazione, perché la relazione con gli altri è vera ed è costruttiva quando è una relazione di persone, fra persone e persone, cioè persone vuol dire che si sono autocreate, autodefinite, autocreate, che si mettono in relazione. Bene, però c'è dentro la nostra mente la paura di restare soli se diamo diciamo una risposta alla nostra nascita, se cerchiamo di nascere a noi stessi c'è la paura di perdere il calduccio di tutta l'umanità, e invece si scopre la relazione vera con tutta l'umanità, quindi anche questo bisogna tenere in conto.